Non siamo molti, ma siamo molto tenaci, diciamo, a parlare di queste cose. Ok, passiamo all'11 marzo. Ricordo brevemente anche lì la questione. Corteo di Forza Nuova a Milano, risposta sostanzialmente nulla della maggior parte della sinistra milanese, tranne una piccola parte che si ritrova in un corteo a Porta Venezia. Corteo sicuramente strategicamente con dei problemi strategici, diciamo così, però l'unica risposta che c'è stata a Milano, diciamo scontri di media entità, dipinti però dalla maggior parte della stampa, eccetera, come sostanzialmente un bombardamento di Milano, una distruzione della città, eccetera, eccetera. 25, no, 25 imputati, giusto? 40 arrestati. 40 arrestati e 25 imputati, l'utilizzo anche qui come a Genova, io questa è una cosa che vorrei sottolineare sia qua che sulle questioni di Roma, di una imputazione pesantissima che è appunto devastazione e saccheggio. Pesantissima perché parte, cioè il problema delle, se mi dicevano bene gli avvocati in questi anni, il problema delle imputazioni non sono tanto le pene massime quanto le pene minime. Devastazione e saccheggio parte dagli 8 ai 15 anni, prevede dagli 8 ai 15 anni di galera e quindi chiaramente diventa spaventosamente pesante perché se ti va bene ti becchi 8 anni, cioè voglio dire che non è proprio niente sulla vita di una persona. Secondo me è molto importante questo punto perché come qui due macchine bruciate poco più diventa appunto devastazione e saccheggio, cioè un reato pesantissimo, così a Roma un esproprio fatto totalmente alla luce del sole il 6 novembre in maniera assolutamente collettiva, dichiarata sostanzialmente diciamo, a viso aperto diventa rapina e questa nello stesso modo è un modo di affrontare diciamo così, questi processi che diventa, cioè queste situazioni che diventa chiaramente che innalza il livello di repressione in maniera drammatica e l'incidenza di questi processi sulle vite effettive poi delle persone. E quindi sull'11 marzo passo la parola a Mirko. Qui sono un po' più preparato che sull'argomento di prima. Cerco di fare, come dire, un discorso un attimo di raffronto. Io credo che sia utile che si ragioni sulle dinamiche della repressione per motivi abbastanza evidenti. Io credo che io cerco di capire anche ciò che avviene fuori dalla mia città, fuori da Milano, per cercare di capire. Marta prima ha narrato un episodio che forse è poco conosciuto, l'episodio del San Paolo, che però paradossalmente dal punto di vista come dire, dell'esito del processo, semmai fosse possibile, è addirittura peggiore di quello della Diaz. Lì io quando sono andato in Cassazione, era meglio se stavo a casa, però gliel'ho detto, guardate che qua siete riusciti a superare voi stessi, nel senso che siete riusciti a condannare quello che veniva picchiato e assolvere chi picchiava. Perché lì in realtà, col senno del poi, il compagno che è stato condannato, uno dei due condannati, era quello che aveva avuto il coraggio di denunciare i due appartenenti alle forze dell'ordine che lo stavano picchiando e prima non era stato neanche, come dire, individuato quale autore dei fatti. Questo per cercare di ragionare, questa esperienza del San Paolo, l'esperienza della Diaz, l'esperienza di Bolzaneto, mi sembra che, io non sono un rivoluzionario o tutt'altro, mi sembra si possa dire con, no, come sono un avvocato, con modestia che il risultato che si ottiene è che non si può processare le forze dell'ordine in Italia, ma come dire, è il reato Mazzali da Milano per dircelo, non si può processare non da oggi, non si può processare da mai. E quindi questa è una valutazione che va fatta. Perché i criteri che hanno utilizzato lì hanno, perché poi sarebbe bello portare la sentenza, nel fatto del de San Paolo sono riusciti in primo grado a assolvere il poliziotto che teneva fermo il compagno mentre l'altro lo manganellava dicendo che lui non poteva sapere che l'altro lo manganellasse, cioè che è un capolavoro di sentenza che io leggo quando sono un po' depresso e mi butto giù dal ridere per vedere cosa riescono a fare. E poi hanno assolto anche l'altro che colpiva dicendo che il suo intervento era giustificato dalla reazione del compagno che però dal filmato si vedeva essere inerme. Io Io credo che per fare un'analisi più complessiva, io purtroppo, lo dico per me, difendo Compagnia Milano dal 1990, io credo che lo spartiacque dal punto di vista, come dire, dell'intervento repressivo sia stato Genova G8, nel senso che da lì, da ciò che è avvenuto lì, per esempio hanno rispolverato un reato che allora non c'era, che era la devastazione e saccheggio, che da allora è diventata la moda, no? A Milano prima del 2001 il reato di devastazione e saccheggio, io ho fatto una breve ricerca, non era mai stato contestato a nessuno, a Milano sto dicendo, a Milano quantomeno, e da allora ci sono stati 3 o 4 processi, ma per episodi assolutamente minimali. Da un certo punto di vista, come dire, c'è stato un aumento del livello repressivo. Il reato di devastazione e saccheggio è un reato, come diceva Mina prima, particolarmente grave perché è un minimo edittale molto alto che giustifica una carcerazione preventiva lunga, che è stata per i compagni di Genova dei 25 quasi un anno, è stata per i compagni di Milano 4 mesi per quello che è avvenuto. Da un certo punto di vista, quindi, questa, come dire, invenzione di questo reato, che come diceva giustamente prima Blicero, era un reato che aveva tutt'altra finalità, che era stato fatto nel dopoguerra, che non c'entra assolutamente nulla con quello che è avvenuto né a Genova né a Milano, maggior ragione durante l'11 marzo. Voi potete un attimo riflettere a cosa sarebbe successo se nel 77, chi ha un po' più, io mi ricordo, c'era tanto mai prescritto, Bologna 77, se il criterio era quello, ci sarebbero dovute essere 10.000 arresti con condanne a milioni di anni, e allora non veniva applicato. Adesso viceversa c'è, ma c'è anche per, a Milano c'è stato un processo, poi sono stati tutti assolti, che è caduto una vetrina in Corso Torino, hanno dato 20 denunce per devastazione e saccheggio. E questo è un primo ragionamento che secondo me occorre fare. Un secondo ragionamento sul quale occorre ragionare, che ultimamente è, come dire, la magistratura usa il famigerato concorso morale. Nell'11 marzo, il processo dell'11 marzo, nessuno degli imputati era stato visto commettere nessun tipo di reato, neanche di danneggiamento, li hanno condannati per devastazione e saccheggio col presupposto che operavano un concorso morale rispetto a quelli che avevano commesso il reato. Che se voi ci riflettete, è un deterrente non da poco rispetto a colui che partecipa a una manifestazione, perché se passa questo principio per cui io vado in manifestazione, come dire, sono concorrente morale di tutto ciò che avviene, capite che uno comincia a pensarci 2 o 3 volte rispetto al fatto di andare in manifestazione. E quindi abbiamo la devastazione e saccheggio come reato con pene edittali assolutamente sperverse, per cui, come diceva Mina, se ti va bene, se operi tutta una serie di attenuanti, se ragioni bene, poi alla fine prendi 4 anni e devi anche dire mi è andata bene, perché lì alla fine hanno preso 4 anni e dobbiamo quasi ringraziarli invece, come dire, di dire che è una sentenza scandalosa. E abbiamo questo concorso male. Io credo che, e poi non voglio tediarvi più a lungo, che sia pacifico, almeno per l'esperienza che ho io, che quando arriviamo in tribunale abbiamo già perso praticamente. Poi gli avvocati dei compagni sono bravissimi, ci facciamo un culo così, facciamo il nostro dovere, però alla fine giochiamo in trasferta, se posso usare un termine calcistico. E quindi se siamo arrivati lì, siamo già fottuti, insomma, in maniera... Lì l'arbitro addirittura segna di testa, insomma, fanno molto peggio di quello che si vede. E se noi arriviamo lì, perché non è colpa nostra, evidentemente, degli avvocati, è perché comunque non c'è un ragionamento a monte. Non c'è un ragionamento sul fatto che, paradossalmente, adesso, mentre un tempo dovevamo aver paura dei NOx, adesso dobbiamo aver paura dei vigili. Perché adesso... dei controllori dell'auto, dei vigili, perché adesso abbiamo a Milano, non so qui, Marco Ferrati non è, mi sembra che abbia brillato nell'ultimo periodo, a Milano abbiamo delle ordinanze del sindaco che non hanno sanzioni penali, che però hanno sanzioni economiche che non sono da poco per le tasche dei compagni, per cui non si può bere la birra fuori dai locali. Cioè abbiamo un sistema repressivo per cui adesso continuano a passare delle leggi che innalzano i livelli di pena per i reati che vengono commessi dai compagni, tipo fra un po' la scritta sul muro sarà equiparata alla devastazione e saccheggio come pena edittale. Cioè abbiamo un sistema repressivo del quale neanche ci accorgiamo e sul quale poco riflettiamo, che se non succede qualcosa, tocchiamo ferro, ognuno tocca chi vuole, porterà a un livello di carcerazione enorme. Io ho avuto la sventura gli ultimi 10 giorni di frequentare Torino, perché hanno arrestato un compagno di Milano che aveva avuto una bella idea di andarsi a fare arrestare durante il G8 a Torino. Ma lì a Torino mi sono spaventato, ogni giorno arrestavano 3 persone. C'è stato quel periodo lì che hanno arrestato lunedì 2 persone, sabato delle A, cioè hanno arrestato, da quando avevano arrestato quel compagno lì, io seguivo la questione di Torino, avevano arrestato 7, 8, 9 persone, non è che poi le hanno liberate, sì, le hanno scarcerate, però gli davano comunque delle limitazioni. Cioè abbiamo un aumento di livello repressivo enorme, abbiamo secondo me una mancata elaborazione collettiva da parte del movimento sulle ragioni che sono a monte del problema, perché ripeto, quando andiamo in tribunale poi, come dire, poi ce la sgobbiamo noi la vicenda, però è chiaro che i processi di Genova la gente non viene in tribunale perché non è bello, cioè neanch'io avrei voglia, cosa faccio stamattina, vado a vedere il processo della Diaz, ma perché? Cioè sì, poi certo occorre che tutti ci vadano, però non è avvincente andare a vedere il processo della Diaz, non è avvincente frequentare i tribunali, e noi che lo facciamo tutti i giorni, però sicuramente si vede come siamo ridotti, peraltro questo la dice anche lunga. Per cui vanno ragionati, io non voglio riproporre, e vado veramente a chiudere, il soccorso rosso, perché siamo nel 2009 e, come dire, poi li hanno peraltro arrestati anche tutti, e quindi un po' porta sfiga, però una elaborazione su ciò che avviene a Milano, per esempio, quando ci sono stati gli arresti dell'11 marzo, fu un caso eccezionale perché allora arrestarono 40 persone, come dire, è stato uno tsunami, cioè, nel senso che anche, come dire, dal punto di vista della ripresa delle attività fuori processuale, non ne parliamo, ma fuori processuale è stato molto faticoso. Però da lì almeno, correggimi se sbaglio, una elaborazione è stata fatta che ci è venuta utile adesso con questo arresto. Per cui adesso questo arresto di questo compagno, come dire, si è fatto meno fatica. Cioè si è fatto meno fatica, voglio dire, uno solo, e questo voleva dire, era anche a Torino. Voglio dire, secondo me occorre elaborare un'attenzione rispetto al problema della repressione, perché, ripeto, se no, quando arriveremo lì saremo sicuramente sempre perdenti. Ok, sottolineo una cosa, che non solo il livello repressivo si innalza in Italia, ma il problema è che è un po' una strategia europea, peraltro, per cui non è che poi uno va in Svizzera e allora figata, succede un cazzo, cioè è proprio una strategia molto chiara che che trasforma, diciamo così, un'occupazione di una scuola in terrorismo potenzialmente. Ok. Solo una cosa, sicuramente ci saranno dei buchi in tutto questo dibattito. Abbiamo nominato solo di straforo il processo di Cosenza, di cui peraltro Supporto Legale si è occupato, esatto. E c'è anche un po' il buco di Napoli, che però verrà fortunatamente riempito da una persona presente, da Elena. Detto ciò, ce ne saranno mille altri, e vabbè, abbiamo cercato di prendere un po' di cose sparse, e passerei invece a Roma e quindi a Simone, per poi passare al locale. Ma io, prima di dirvi di Roma, vorrei riallacciarmi a quello che ha detto adesso Mirko molto rapidamente, perché intanto per condividerlo, in effetti è stato esattamente così, cioè Genova è l'inizio di una idea che è venuta alla magistratura di poter utilizzare qualsiasi cosa contro i manifestanti. Va detto, secondo me, e io lo dico sempre per correttezza anche nei confronti che studiando questi bruttissimi reati ci si accorge che quello che è stato fatto ai manifestanti adesso è stato sporadicamente fatto ai gruppi di ultras negli anni precedenti, in una logica che è esattamente la logica che si usa con i manifestanti, cioè di dire, beh, tanto su di loro si può fare qualsiasi cosa, quindi anche usare la devastazione e saccheggio, vediamo che cosa succede, la pena minima è 8 anni, quindi qualcosa riusciamo a portare a casa sicuramente. Cioè la logica è la più massacrante, e devo dire che in questo senso la responsabilità principale, io continuo a dirlo, è della polizia. Cioè io mi rendo conto che i magistrati decidono e che quindi sono loro ed è colpa loro, però io l'accanimento che vedo nelle relazioni di polizia sui fatti che avvengono di violenza politica, anche quando la violenza non c'entra niente, l'accanimento nelle indagini, nel modo di farle, nell'andare dal magistrato continuamente, nell'avere l'atteggiamento di dire che il magistrato si assume la responsabilità se non tratta questo fascicolo come la cosa più importante della sua vita, si assume la responsabilità delle gravissime cose che succederanno, che poi non sono mai successe. Cioè, c'è un livore, una forza di aggressività da parte della polizia, perché naturalmente loro sono concentratissimi su queste cose, che non vedo in nessun altro fascicolo, anche quando ti trovi da avvocato a difendere per le svariate ragioni per fatti gravissimi di criminalità comune, tu ti rendi conto che la polizia molto spesso li tratta come fascicoli ordinari, anche perché magari ha degli interessi, cioè tutta la gestione del traffico di persone, dello sfruttamento della prostituzione, per esempio, dalla polizia viene gestito in maniera anche un po' ambigua, perché ci sono in mezzo vari interessi loro. Quando ti trovi di fronte a due ragazzi che scrivono su un muro a Bologna e ti rendi conto che loro fanno indagini e mettono tutti i carichi più pesanti perché sia punita nella peggior modo. A Bologna, per esempio, noi abbiamo avuto la fortuna, io lo dico con franchezza, che un magistrato come Giovagnoli abbia fatto la cosa più sbagliata del mondo. Cioè, lui di fronte a questa polizia che continuava a dirgli devi fargli di tutto, perquisizioni di ogni tipo, o comunque inquisirli nei modi più orrendi, lui ha detto, beh sì, il modo c'è, contestiamo l'aggravante delle versioni anche quando loro fanno cose banali, tipo una piccola manifestazione. Avendo lui esagerato da questo punto di vista, ci ha reso possibile una difesa. No, perché va raccontata per com'è questa storia, cioè il fatto che adesso la Procura della Repubblica si sieda di fronte ai giudici e dica no, noi non contestiamo più le versioni, quando per fascicoli di una banalità disarmante come potevano essere delle manifestazioni, ci ha dato la possibilità di difenderci all'interno, e quindi per esempio i compagni arrestati sono usciti sull'argomento che siccome non poteva essere versione a quel punto bisognava scarcerarli eccetera, ma se avessero usato la ordinaria freddezza e l'ordinaria cattiveria, noi avremmo avuto processi più difficili da gestire, perché come dice Mirko, quando arrivi poi al dibattimento oppure quando arrivi comunque in tribunale, la questione è chiusa, cioè tu puoi gestirla come l'abbiamo gestita a Roma, così rispondo a quello che mi ha chiesto Mina. A Roma io sono uscito in udienza preliminare, i bolognesi che erano indagati sono usciti in udienza preliminare, ma sull'argomento classico, cioè sono stati riconosciuti no, sono stati riconosciuti sì, forse non erano loro, quando poi palesemente in molti casi erano loro, e tu riesci in qualche modo a uscirne processualmente da questa cosa, ma sei dentro un meccanismo, quello polizia e pubblico ministero prono, dal quale non esci più vivo. Cioè intendo dire che la soluzione giudiziaria è una soluzione casuale, saltuaria. Mirko ha detto siamo bravissimi, sì, siamo bravissimi perché a forza di prendere delle mazzate fortissimo ci siamo un po'... abbiamo imparato a schivarle, che quando invece, ma è una difesa, sei sempre in difesa, sei sempre in arretramento. Mi dispiace che Mirko dica adesso, non perché ovviamente, ma perché è bravissimo come direbbe lui, ma che non fanno le parti civili nei processi. Io ho cercato ossessivamente di riuscire a fare quella parte civile lì ed è un processo a cui tengo moltissimo, perché mi rendo conto che fare la parte civile nel processo con i nazi skin voglia dire dare una mano a una procura che, come diceva lui, è lì che traccheggia perché non interessa niente a nessuno, perché fanno questo processo, ne hanno già fatto uno, sono stati tutti assolti, per cui hanno paurissima a fare qualsiasi passo perché hanno timore di fare questo processo contro i nazi skin, dove naturalmente è imputato il responsabile, uno dei capi di Casa Pound di adesso, che invece va in giro dicendo che lui non c'entra niente con nessuno, però quando poi vai a vedere chi è veramente scopri che ha una storia di 10 anni. Quindi in questo senso il processo contro i nazi skin a Bologna è proprio la cartina di tornasole del ragionamento, nel quale quando la procura invece fa un passo molto forte nei confronti loro contestando cose, è solo. Ed è lo stesso discorso di Genova, perché io sono molto contento quando sento il dottor Zucca, il procuratore, dire ah sì, no, in effetti quando inquisisci la polizia è proprio tutta un'altra cosa. Cioè, perché gli fa bene anche a loro, fa bene anche ai magistrati rendersi conto di cosa vuol dire quando inquisisci i poliziotti per dei fatti palesi, rendersi conto che dimostrare che appunto uno che tiene fermo un altro mentre viene massacrato, dimostrare che è colpevole, perché quando fanno i processi contro di noi sono sorrisi, quando tu gli dici ma scusi era solo presente sul posto e non ha fatto niente, questi sorridono e ti guardano dicendo ma avvocato era presente quindi partecipava. E finisce lì la questione, anche a Roma era così, cioè nel senso quelli che sono andati, adesso c'è il processo in corso per quell'esproprio nel quale le immagini che noi abbiamo sviluppato sono immagini in cui si vedono decine e decine di persone comuni che prendono la spesa e se ne vanno via, perché quel giorno andò così, andò che i ragazzi fecero questa iniziativa palese sui giornali e quant'altro, e decine e decine di cittadini di quel quartiere, quando hanno visto succedere questa cosa, non ci hanno più visto, ha riempito la spesa e se ne sono andati urlando esproprio proletario, è tutto meraviglioso, ma è così che è andata questa cosa, non è che nessuno li ha individuate quelle persone, e che quella è rapina come quella degli altri, però è quelli che c'erano lì del movimento sono stati accusati di rapina, che è un reato anche questo molto grave. Questo è un po' il senso ed è per questo che il lavoro di supporto legale è stato importante, sarebbe importante farlo ancora, il lavoro di analisi quando ci sono i processi è importante, oltre a quello di informazione, sarebbe meglio farlo ancora, farlo meglio e farlo di più, anche senza pagarti, voglio dire. E in tutto questo, per concludere, credo che sia abbastanza evidente che o in questa fase qua, nei prossimi, almeno lo evidente dal mio angolo di visuale, o nei prossimi anni questa cosa un po' cambia, cioè c'è qualcuno che fuori dai processi segnala questa situazione di diseguaglianza e soprattutto di protezione nei confronti della polizia che mena, oppure questa cosa diventerà un po' ingestibile alla lunga, perché le sentenze in sentenze sono sassi, cioè una sentenza come quella del San Paolo o viene presa come la sentenza dei pazzi, cioè in Cassazione c'erano tre matti che hanno fatto quella sentenza e quindi ci vogliono altre sentenze che dicano il contrario, oppure diventa un sasso su cui metteranno un'altra sentenza, una terza sentenza, una quarta sentenza, e a quel punto non ci sarà più bisogno della Cassazione, perché lo faranno i giudici di primo grado, quei pochi che vogliono assolvere diranno beh avvocato vorrei tanto, ma guardi cosa dice la Cassazione, e quindi cominceremo a perdere ancora di più, a perdere sempre di più e a essere sempre più in difficoltà. Però questa cosa non viene dagli avvocati, o questa cosa viene da fuori, da posti come questi, dove la gente fa le cose e decide anche un po', oppure diversamente è impensabile che la facciamo noi, perché noi, come diceva Mirko, stiamo lì un po' in trincea col casco e cerchiamo di evitare i colpi più brutti, ma molto più avanti non vai, questa è un po' la mia sensazione di fondo. No, ma...